la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ma intanto io non immagino un pubblico, il lettore è uno solo, così come il rapporto tra scrittore e lettore è uno a uno, si è in due e basta. Quindi io come lettore, insomma, sono a un rapporto personale, privato con quello che sto leggendo. E per quello che riguarda i giovani, io penso che siccome non sono padre, dunque anche alla mia età sono rimasto figlio, questo può essere che si sente nelle cose che scrivo. Ecco, non ho nessuna vocazione a predicare o a insegnare qualcosa. La prima volta di Harry De Luca ha inizio quando, a quasi 40 anni, per caso pubblica un suo libro, Non ora, non qui. Ricordi di infanzia in una Napoli di vicoli e bambini in cui De Luca cresce. Sua mamma e suo papà non erano comunque persone che avevano un passato di attivismo politico? No, mio padre a Napoli era iscritto al Partito Socialista, era un ammiratore di Nenni. Poi di De Martino, arrivato a Craxi si è fermato. Senta, lei nella sua famiglia di origine è figlio unico o ha dei fratelli? Una sorella. E anche sua sorella ha preso un percorso simile no. al suo oppure ha fatto no. Un, no, no. un percorso no. diverso? Diverso. Ecco, la cosa che a me è piaciuta molto leggendo anche i suoi libri è innanzitutto il tratto della sua vita, cioè il fatto che comunque lei ha veramente attraversato tante vite, cioè anche facendo tantissimi lavori differenti, perché la scrittura è arrivata a 40 anni, ma prima c'è stato tutto un percorso suo. Questo suo essere lavoratore dentro una società appunto operaia, quanto ha influenzato poi Harry De Luca che conosciamo tutti oggi? Intanto la scrittura mi ha tenuto compagnia fin da ragazzo e la pubblicazione che è arrivata a 40 anni, per caso è spuntata fuori a 40 anni per caso e poteva anche non spuntare. E quindi questa è stata la costante. I lavori che ho fatto sono stati lavori dopo il decennio nella sinistra rivoluzionaria, ho fatto lavori di operaio, era quello che sapevo fare, era quello che potevo fare e quindi sono rimasto a stare lì dov'ero, insomma, con le persone con cui avevo già manifestato, avevo già lottato in precedenza. È stato abbastanza naturale per me di proseguire in questo modo. E questo, diciamo, quella è tutta la mia esperienza fisica e poi è finita nelle scritture, insomma, ecco, anzi, quello che scrivo proviene semplicemente da una condivisione, da un'esperienza fisica. Non riesco a fare astrazione e a inventare, non ho una grande fantasia, insomma. Quando lavorava come operaio, lei scriveva che cosa? Sì. Beh, in 20 anni di lavoro operaio ho scritto, ne ho riempiti di quaderni, mi sono tenuto compagnia tante volte, anche quando ho pubblicato per la prima volta a 40 anni, poi per altri 7 anni ho continuato a fare il mestiere di operaio. E i suoi colleghi cosa dicevano? Se ne parlava di questa sua vena? I miei colleghi ultimi, quelli degli ultimi anni, quando ero anche scrittore, si immaginavano che la scrittura dovesse essere una specie di tredicesima che arrivava a integrare il salario, perché insomma si vede, perché se no non era era un tempo, una gratifica festiva per loro. E per lei? Per me pure. Per me è un'attività festiva la scrittura, ecco, non la posso mettere sotto la parola lavoro, la scrittura che faccio, perché è sempre stato il contrario del tempo di lavoro, è stato il tempo salvato da una giornata di lavoro, il tempo migliore. Senta, nel suo libro d'esordio, quello di cui stiamo parlando, Non ora, non qui, lei ha raccontato la sua infanzia, ha parlato appunto di lei bambino, e tra le tante cose mi ha colpito molto anche il dettaglio della sua balbuzie. Questa cosa quanto ha ostacolato e quanto ha rinforzato il suo bisogno di scrivere? Beh, si scrive da un isolamento, si scrive da una distanza, se no uno parla, è una forma di comunicazione che prescrive un distacco, una distanza, ma questo dipendeva più dal mio temperamento che dall'inciampo delle parole in bocca. Perché? Che tipo di temperamento aveva? Un temperamento molto chiuso, riservato, che ho ancora conservato anche adesso, insomma, sono abbastanza mi trovo bene nel mio isolamento, ecco. Non posso usare la parola solitudine, perché la solitudine è un termine nobile e poetico. Si tratta di una buona capacità di isolamento, ecco. Io sono capace di isolarmi perfettamente anche in mezzo a una folla. Nelle sue giornate lei sta spesso solo? Cioè, quando scrive, dov'è che scrive? Sono a casa, se no dovunque. Non ho un luogo, un altarino presso il quale mi raccolgo, no? E la scrittura è semplicemente un quaderno che sta presso me. Questa cosa che ha descritto, dice, non la voglio chiamare solitudine ma isolamento, è collegabile all'amore che lei ha per la montagna? Ma da quell'isolamento è venuto anche l'amore per la montagna, perché insomma in montagna anche quando si scala in due, comunque si scala da soli. E in silenzio. La corda, in silenzio. Io veramente no, io mentre scalo canticchio, mi aiuta a regolare il respiro. Senta, questo amore per la montagna è nato, diciamo, dall'infanzia, cioè gliel'hanno passato i suoi, oppure se l'è cercato lei? È un'infezione paterna, un contagio paterno, perché mio padre è stato alpino nella Seconda Guerra Mondiale, è stato nella fanteria alpina, e da quella esperienza maledetta ha riportato indietro un sentimento di affetto e anche di gratitudine nei confronti delle montagne. E questo sentimento me lo ha trasmesso. Quindi facevate delle gite quando lei era piccola insieme a suo padre in montagna, camminavate molto? Poche volte sono stato con mio padre in montagna, no? Quindi una trasmissione più teorica, diciamo, che non pratica. Una trasmissione affettiva, sentimentale, e che io poi, insomma, quando mi sono trovato sotto le montagne, ho avuto voglia di metterci, oltre che i piedi, anche le mani, di scalarle. Lei vive a Napoli? No, io ho lasciato quella città a 18 anni. E non è mai più tornato a Napoli? Sì, ci vado spesso. Ci tornai a lavorare subito dopo il terremoto, dopo l'autunno dell'80, nell'inverno dell'80-81. Tornai a lavorare in un cantiere della ricostruzione lì, ma poi sono riandato via. No, insomma, non abito più in quella città, ma non abito più in città, perché da molti anni abito in una casa di campagna, in mezzo ai campi. E perché non torna più a Napoli? Perché non parla di Napoli ma di quella città? Io ne parlo continuamente, ne scrivo, e le mie storie sono spesso piantate da quelle parti, in quella città. E rispondo, un mio amico, un poeta di Sarajevo, aveva una sua passione per la sua città. Sarajevo è rimasto durante l'assedio sempre lì sul posto, e diceva: tutte le volte che la mia città avrà bisogno di una parola buona, io ci sarò. Ecco, la sua parola, ecco, questa sua frase rispecchia quello che sento io, insomma, nei confronti di quel posto di origine mio. La prima volta. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride. quella di oggi è la storia di Harry De Luca, un ragazzo napoletano, figlio di una famiglia medio-borghese. Gli studi al classico, poi la partenza per Roma. Siamo alla fine degli anni 60. De Luca entrerà nei movimenti studenteschi prima, poi nelle fasce estreme della sinistra. Intanto inizierà a fare l'operaio, una vita di turni, fatica, ma anche di scrittura. Una vita lontano da Napoli, una città che però resterà sempre al centro delle attenzioni di Harry De Luca. Napoli sta a ombelico del Mediterraneo. Se tiri una linea da Marsiglia a Atene, da Trieste a Tripoli, o da Istanbul a Barcellona, incroci Napoli, sta in mezzo al Mediterraneo come il mese di maggio in mezzo all'anno. Quando l'affondarono i Greci, avevano esaurito tutta la loro fantasia geografica. Come la chiamiamo questa città? Dissero, ma provvisoriamente chiamiamola Neapolis, città nuova. Città nuova. Ma il mondo è pieno di città nuove che si chiamano così. Allora i napoletani si sono specializzati per rendere inconfondibile il loro luogo, a differenza di tutti gli altri, di tutte le altre città nuove. E hanno fatto di Napoli una città leggendaria, che è sempre un misto di magnifico e di atroce. Il dialetto. Da noi non si pronuncia l'ultima vocale. Le parole rimangono sospese. Prima e dopo sono prima e doppa. Hanno più carne e ossa del presente, che è solamente mo. L'amore nostro è piuttosto di amore, più svergognata la fama della fame. I soldi sono esord, il soldato o sordato, più sordo che assoldato. Da noi il c'è non c'è, però ci sta. Da noi non c'è chi ha, però ci sta chi tiene. Il sangue è o sangue e vale meno di un bicchiere d'acqua. Da pochi giorni Harry De Luca è a teatro con uno spettacolo. Uno spettacolo che parla di ottimismo, che si rivolge a chi combatte per un'idea o per un'esigenza. Sono responsabile di tutto lo scritto, l'orale. Perché ha scelto questo titolo, Chisci Ottimisti? Perché è tempo di segnare qualche cosa che resiste all'andazzo del pessimismo sanciopanzista. Senta, è uno spettacolo che si sviluppa su un dialogo tra tre amici, se ho capito bene, perché appunto non avendolo ancora visto, nel quale cosa emerge? Quindi questa figura di un ottimista che riesce, grazie agli ideali, a combattere contro i sanciopanza. No, Sancho Panza è il freno a mano, è quello che continuamente dice che le cose non si possono fare, che tanto non possono essere cambiate perché stanno sempre, non c'è niente da fare, insomma è un dimissionario, è la maggioranza silenziosa e dimissionaria. Invece Chisci Ottimista è qualcuno che continuamente ha le prese con delle forze superiori, anche schiaccianti, non la smette di insistere, di battersi e di continuare a rimettersi in piedi per far valere le sue ragioni. Dunque è uno che non può essere mai vinto una volta per tutte, è una figura una tipica figura chisciottesca, ma di questi tempi i chisciotteschi sono chisciottimisti. Senta, le volevo fare questa domanda. Un po' di tempo fa era nata questa parola buonista, che era terribile in fondo se si pensa, che toglieva anche forza a chi cercava di essere buono, no? Perché era un po' la prendeva in giro, chi vuole essere, chi si comporta in maniera decente, sì. E lei, le volevo chiedere, per essere un chisciottimista si deve essere buoni? No, si deve essere animati da uno spirito di buona volontà e anche magari in condizioni di necessità. Ecco, delle persone come quelle della Val di Susa farebbero volentieri a meno, insomma, di di battersi contro quel mostro che vuole trapanare le montagne loro cariche di amianto e di Peck Blenda. Quindi sarebbero volentieri, insomma, a farsi gli affari loro, ma sono costretti a battersi per legittima difesa contro quella mostruosità. Quindi è una spinta che nasce da un'esigenza, oppure ci sono semplicemente anche dei tratti idealistici in chi combatte? Ma ci sono delle... Chisciotte è un idealista, ma i chisciottinisti non sono necessariamente idealisti, non sono per forza dei volontari della buona azione, sono delle persone che si trovano in necessità di resistere alla qualche saputo, oppressione, urgenza, insomma, ecco, quelli che vengono qui, quelli che sono da noi, gli immigrati, quelli che partono da delle condizioni di guerra, di esilio, di miseria, e sarebbero molto più volentieri a casa loro, non lo fanno mica volentieri questo viaggio, sono catapultati fuori, espulsi dalla loro situazione e sono costretti a battersi per la loro sopravvivenza, quindi anche loro rientrano nella categoria dei chisciottinisti. Esiste una rima, insomma, tra Bandisusa e Lampedusa, è una delle nuove rime che è in circolazione. Secondo lei i periodi storici influenzano appunto la nascita e la crescita di questi movimenti? E certo, certo. Si reagisce alle condizioni del momento. Dunque, sicuramente l'accidente in corso è quello che determina la mobilitazione, la reazione, la presa di coscienza. Ecco, e nel suo personale, soprattutto nella sua storia personale, lei è sempre stato in qualche modo proprio una figura, non è un caso appunto che poi prenda le parti di questi chisciotte attuali, no? Perché lei stesso nella sua storia, finito il classico, ha deciso di entrare proprio in un percorso di lotta o comunque di manifestazione dei propri diritti, dei propri bisogni. Io ho fatto parte per molti anni, per tutto il decennio 70, della sinistra rivoluzionaria italiana, che è stata la sinistra rivoluzionaria più forte e radicata di Occidente. Dunque ho partecipato di una comunità, non l'avevo suscitata io, non era una mia reazione spontanea, ma era l'ordine del giorno della mia generazione e a quella ho obbedito a quella generazione che stava già per le strade, che aveva già compiuto il passo di scendere dal marciapiede e occupare il centro della carreggiata. Però lei ha obbedito, ma si è anche fisicamente proprio impegnato, nel senso che da Napoli è andato a Roma, cioè ha cercato certamente, proprio... Certamente, era quello che faceva quella generazione allora. Dedicava il proprio tempo, la propria vita, anche la propria libertà a quell'ordine del giorno. E la sua famiglia di origine come ha preso questo suo impegno appunto civile e politico? Lo ha guardato da lontano. La prima volta termina qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per domenica prossima alle 13.30, se volete potete riascoltarci in podcast, il nostro indirizzo è laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Failing to remember why we came.